Non vorrei sembrare impaziente, ma abbiamo attraversato l'intero deserto alla ricerca della chiave del fuoco. E non sappiamo ancora se siamo sulla strada giusta. Potreste aiutarci?